Hola, hola. 1, 2, 3, prova, cambio. Io. Attenzione, binario 10, cambio. C'è qualcuno, cambio. Canale 10, canale 10. Vedra. Prove 16 di trasmissione. Cosa c'è Gianni? Cosa c'è? Buonasera. Sì, ciao Gianni, buonasera, tanti auguri. Auguri Marco, anche a te, anche a te. E allora? E allora siamo qua, già. In relax, giocando con le radio, computer e cose varie, tutto acceso, tipo albero di Natale. E così sono io. LPD e coso, PMR, e 27. Ah, vedo che c'è poca gente. Ho messo a posto l'antenna. Ieri con Claudio, perché mi stava dando problemi, si arrivano le stazionarie e deve essere il vento, mi ha allargato la molla, e me l'ha portata, mi portava le stazionarie del fondo scalo. Aia, guarda, questo vento, ne parlavamo ampiamente in questi giorni con gli amici radioamatori, sono cambiate le condizioni meteorologiche di questi ultimi 10 anni, le cose si sono veramente rese sempre più difficili per chi ha impianti d'antenna, sempre più complicate, e così, e danni costanti un po' a tutti. E cosa, che problema ti ha creato già? Stazionario fondo scala in tutti i canali. Praticamente si era mossa la molla per regolare stazionario, era scesa, si è smollato praticamente, dato che la tiene, era scesa, capito? Era 14 centimetri, era il doppio di quella che doveva essere. Ah vabbè, dai, perciò comunque niente di grave, cioè l'antenna non ha subito danni, si è solamente allentata la fascetta, vabbè, non era una cosa grave, diciamo, dai. Sì, grave no, ma l'antenna vuol cambiata, Marco, e sono salito su e è tutta frasica, tutta marcia. I radiali ne sono rimasti due, perché li ha tutti persi, gli altri tre erano giù sul tetto, meno male non sono caduti giù. E niente, come farà bel tempo, ne piacerò qualcun altro, ma non ho idea di che cosa mettere. Me l'ha detto la Game Master, ma la Game Master non resiste molto al vento. La mia zona è molto ventosa, è proprio di fronte al mare, e quindi quando c'è maestrale lì batte forte. Ti capisco, più di me, io lo prendo proprio in pieno, io sono completamente aperto al nord, è una tragedia, arrivano addirittura, cioè, maestrale, arrivano addirittura le goccioline dell'acqua con la salsedine, nelle antenne c'è costantemente il sale, pensa un po', già, ovviamente i materiali sono quelli che sono, la competizione ai prezzi sempre più bassi, la scarsa quantità di vendita di questo tipo di prodotto fanno sì che le antenne nel tempo, soprattutto queste un po', diciamo, più in disuso, fra virgolette, la banda cittadina, già tutto in disuso normalmente nell'utilizzo delle antenne, anche radioamatoriali, e i materiali sono più poveri, gli spessori sono sempre più esili e la durata è nettamente inferiore a quella dei decenni passati, ma comunque, dai, un'antenna da 27 costa 100 euro più o meno, ma ce ne sono anche che costano meno e dura 20 anni, cosa possiamo pretendere? è anche insomma motivo di rinnovare, di avere rendimenti sicuramente migliori rispetto a quello che può dare un'antenna, e anche il cavo che ormai sarà cotto e tracotto già, perciò cuore in pace, 2020, come magari ci sono belle giornate eccetera, anche oggi ad esempio è una bella giornata, oggi si poteva lavorare, io sono in vacanza, ne avevo voglia di salire sul tetto, ma oggi la giornata era veramente giusta per poter andare su e fare lavori, poi per piazzare una verticale non è neanche così complicato, magari è un po' più fastidioso è fare passare cavi o roba del genere, ma l'installazione della verticale tutto sommato è abbastanza, sono tutte premontate, fai veloce anche a mettere in opera, se il palo è ancora buono di sostegno, le staffe sono ancora valide, si mette in un paio d'ore. Sì, tutto quello che posso fare è cambiare i tiranti, magari anche se non c'è bisogno, ma li cambiamo il cavo. Quando metto quella nuova cambio il cavo e tiranti. Aspetta un attimino che mi regolo stazionario, un secondo solo, perché quando tu sei entrato stavo manipolando il rosmetro, aspetta un secondo. Fai. Hola, 1-1 di stazionari, là già va bene. Beh, 1-1 è perfetta, 1-1 è perfetta già. Sì, poi su tutti i canali, ho provato anche canali alti, tutto quanto, sempre 1-1, guarda, va meglio di prima che era nuova. Ci credi? Va meglio di prima. Vabbè, prima era 1-1, 1-2 al massimo, prima di farmi questo difetto. E ce l'ho l'antenna, penso 17 anni. Poverina, cosa vuoi pretendere di più? Ti ha aiutato e collaborato per un lunghissimo tempo, perciò insomma, anche se è 1-1 di stazionari, gli anni suoi li ha fatti, l'alluminio sicuramente sarà poroso, il cavo sarà cotto e stracotto, tu pensa 17 anni di sole con quelle temperature che abbiamo sul tetto ad agosto, la gomma come puoi pensare che possa essere, il rame che è al suo interno della trecciola, sarà tutto ovviamente ormai in decomposizione, perciò quando cambia metti anche i tiranti nuovi, certo, quattro pezzi di bike, che cosa, cioè, fra l'altro dico già, non è che sia neanche una grossa spesa, sostituendo tutto, esageriamo, metti che esageratamente antenna, cavi, 200 euro, 200, 220 euro, certo sono sempre tanti soldi, ma insomma, d'altronde per 20 anni rifai un lavoro, adesso ti dura altre 20 anni, perlomeno sei tranquillo, e poi sicuramente aumentano anche le prestazioni, il fatto che hai 1-1 stazionario, già tieni presente che un'antenna non vuol dire nulla, perché se tu prendi una resistenza da 50 ohm e l'attacchi al ricetrasmettitore, al PL positivo un po' caldo, e l'altro lato alla massa, ti dà sempre stazionario 1-1, forse sino a 500 MHz, ma non irradia nulla. Lo so. Stavo dicendo. E poi in questo periodo sono stato abbandonato anche dal Galaxy. Stavo parlando l'altro giorno, di colpo non mi sentivano. Pensavo fosse il microfono, l'ho smontato, pulito il PTT con lo spray per contatti, l'ho ripiazzato e non andava. Allora l'ho provato quel microfono, l'ho provato in un altro apparecchio e funzionava. E da lì ho capito che era qualche cosa di interno, sicuramente il modulatore. Come tutte le cose vecchie, già, cosa vuoi che ti dica? Io di questi base ne ho una marea. Funziona perfettamente, poi lo riaccendo e c'è un problema, spegni quello, ne provo un altro e c'è un altro problema, è sempre così, le cose vecchie, i componenti si deteriorano e si invecchiano anche se non vengono utilizzati e sfortunatamente ci abbandonano. Perciò più sono vecchi e più si è soggetti a avere bisogno di cure. Sai che cos'è già? L'unico vero grosso problema che abbiamo è che siamo in Sardegna, non ci sono laboratori, non c'è possibilità di fare interventi, ma anche per le antenne, per dire, no, se uno c'è un problema, vuole un bravo tecnico, cioè, si fa fatica a trovare qualcuno che oggi faccia un bel lavoro, così. E allora bisogna per forza mettere dentro una scatola e spedire, e per gli apparati la 27 credo che sia anche abbastanza difficile trovare qualcuno veramente competente che poi risolve i problemi. Dimmi adesso come la radio, Marco, che sto provando una cosa, la radio com'è? No, brutta già, è satura, non è chiara. Ho capito, andare. Questa è con effetto eco, è molto amplificata, ma insomma, va molto meglio rispetto all'altra. Sì, è troppo alto, come si dice. Come va? Cosa ti stavo dicendo? Niente, adesso lo dovrò portare dal dottore. Quando appena mi telefona, glielo porto e ve lo faccio vedere, perché quelli sono, ne ho mille di apparecchi, sono tutti belli, però questo qui per me è la mia chicca. Lo so già, anche a me è uno di quelli che mi piace di più, io ne ho due. E di questi della 27 è uno di quelli che prediligo, diciamo, anche se ce ne sono tanti altri belli eccetera, però questo è uno dei miei preferiti. Cosa vuoi ti dica? Il dottore, qui il dottore l'unico che abbiamo è Fabrizio, che un po' si dedica a questi lavori, che ha la passione, le apparecchiature e la capacità di poter mettere mano, l'unico è lui qua in zona, ma compatibilmente con i suoi impegni, le sue cose, se ha possibilità, voglia tempo. Ultimamente so che è abbastanza impegnato con tante cose che ha da fare, da risolvere. Però poi altri non saprei, giù nel Cagliaritano c'era uno che però mi pare che non stia più facendo niente, e poi mi pare che qui in Sardegna non ci sia proprio nessun altro che poi ha tutto sommato la voglia e il tempo di mettere mano agli apparati, che sia CB o che siano anche radiomatoriali. No, ma io mi affido a Fabrizio, perché ci siamo già sentiti, mi ha detto che c'ha gli impegni, che come si libera me lo fa. Però sto morendo senza quell'apparecchio, ci credi? È modulo, però non c'ho la stessa soddisfazione, quindi adesso sto usando un Magnum 980, che è bellissimo come apparecchio, però non mi dà la stessa soddisfazione del base, dell'apparecchio base. Lo so già, quando hai un preferito c'è poco da fare, ne puoi avere tanti che vanno anche meglio, magari ti danno anche i migliori rapporti, ma se a te piace quello non te ne frega niente. È un po' come le passioni, gli hobby, che sono, prediligono una marca piuttosto che una squadra, piuttosto che una società, eccetera eccetera. Il discorso diventa ampio, ma il risultato è sempre lo stesso: quello che preferisci, indipendentemente da quelle che sono le performance, vuoi quello lì. Ti capisco, ripeto, perché ne ho tanti, come sai, ma anche per me è uno dei prediletti. Vabbè, io anche per la roba da vestire sono così, vedo prendere qualcosa che mi piace, no? Poi giro gli altri negozi, posso girare, poi ritorno lì e prendo quello che mi è piaciuto all'inizio. Sono fatto così. È normale. Mentre per le antenne, ritornando al discorso che facevamo prima, anche io quando poi si è rotta la Mantova, l'ultima perché ho cambiato recentemente, anche quella aveva tanti anni di onorato servizio, ho comprato una della Sirio, della Sirio 827, può essere 857, comunque la versione che un po' assomiglia, ma sono tutti uguali, sono sempre 5 ottavi, intorno ai 7 metri circa, con il radiale in alluminio che ha un anello di materiale plastico rigido per antispiffero che blocca tutti i radiali, e va bene, ma sai, non avendo possibilità di fare confronti, dal punto di vista delle prestazioni poi è sempre un tubo più o meno da 7 metri, è sempre poi 5, 6, 8, 7 quelli che sono i radiali piano di terra, poi secondo me molto spesso ci lasciamo come per la scelta dei muri delle radi, ci lasciamo influenzare, ma quando l'antenna è fatta di alluminio più o meno la stessa lunghezza, c'è un pezzo di filo, una bobina che è uguale o che poi sia marcata in un modo, che sia marcata in un altro, i risultati, credimi, sono pressoché uguali, o non abbiamo delle differenze tali da poter pensare questa sento e con quell'altra no, ecco, questo è, anche se poi invece magari così non sembra per quello che senti da tanti corrispondenti. Tu hai comprato la Tornado della Sirio. Aspetta che guardo come si chiama, perché non mi ricordo se si chiama Tornado. Aspetta un attimo, tanto sul computer acceso. Se è tipo la Mantova 5, la Tornado, la stavo guardando anch'io, mi piace pure. È quella lì, tipo Mantova 5, allora vediamo un po', antenna CB Sirio. No, non è la Tornado. No, la Tornado costa 91 euro, sì, che però è sempre 5 ottavi con la bobina di carico, fra l'altro anche un bel modello come antenna, fatta bene, ho visto tanti video, adesso sto riguardando e ho i codici dei prodotti. Quella che ho io è la 827, costa 140 euro più o meno, mentre la Tornado costa 90 euro circa. La Tornado è quella, l'altra soluzione che avevo pensato. Poi ho preso l'auto 27, ma solamente così per una questione di preferire una cosa piuttosto che un'altra, ma sono due antenne che più o meno secondo me, no? Il risultato sarà lo stesso. Che cosa hai notato di differenza? DB di guadagno, cosa c'ha di differenza? Ma guarda, già lascia perdere questi discorsi che scrivono dei guadagni di un'antenna piuttosto che di un'altra, sono tutte fesserie. Le antenne più o meno sono uguali con prestazioni. È solamente un po' dal punto di vista strutturale il modo nel quale è realizzato. La 827 è un po' il montaggio come la Mantova. La Tornado invece va montata laterale con dei cavallotti a doppia guancetta in ferro zingato, capito? Quello lì che non mi è piaciuto più di tanto, ma poi per il resto l'antenna sono molto similari. È valido anche il sistema che ha della presa nel cortocircuito della bobina, che c'è proprio una barretta di alluminio, ma avevo visto dei video anche, ti dico, è bellina come antenna. E la 827 altrettanto, sono molto similari. La Sirio 827, fra l'altro ho già perso uno dei radiali, uno l'ho già piegato, e c'ho solo un anno, forse neanche un anno fa, perché le cornacchie qui da me, lo sai com'è, hanno un sacco di punti di appoggio e perciò quando si mettono su in due o in tre e poi partono insieme, il tubo d'alluminio, ciao, poi se è caldo, figurati se è nel periodo caldo, così come è successo difatti nel periodo estivo, se lo spezzano, infatti quelli sono così, i radialetti del piano di terra, sicuramente quelli della Mantova che erano in fibra di vetro con il rame all'interno erano molto più resistenti per queste problematiche, perché le cornacchie si posavano, poi quando partivano lei ritornava e non succedeva niente, mentre questi in alluminio se si piegano e li rovina, capito? E Io guarda, nella mia Amato va 5, in questa che ho adesso. Li ho messi prima in alluminio vuoto, dopo che si sono vetrificati quelli originali, che erano in vetroresina. E li ho cambiati e li ho messi in alluminio. L'ho comprato la stecca da bricco, della stessa dimensione, e li ho messi addirittura. No, prima gli ho messo quelli vuoti in alluminio, li ho fatti su misura come erano quegli altri e andava bene, non andava nessun problema. Fatto sta che dopo un po' di tempo, che viene quello dell'attico, dice Gianni, forse è tuo questo radiale, l'ho trovato nel terrazzo. Guarda tu su, c'è un radiale spezzato. Vabbè, dove sono partiti due o tre radiali, allora cosa ho fatto io? E adesso non mi frega più. Prendo quello pieno, e così almeno non se ne parla più. L'ho tagliato a mola, a su misura. Li metto questi pieni, tutti fatti bene, gli ho messo anche i cappuccetti in punta, tutto fatto bene. Sembravano originali. E in più gli ho messo la lenza per gronghi, quella grossa, quella che si usa per pescare gronghi, burene, eccetera, eccetera. Non so se ce n'è presente. Fatto sta che gli ho messo la lenza che teneva i radiali. Beh, lo sai che ce l'hanno fatta anche con la lenza a spaccarmelo, il radiale è rimasto penzone attaccato alla lenza e me l'hanno spaccato perché gli ho fatto un passaggio col bullone passante, no, gli ho fatto i buchi e gli ho fatto passare il bullone passante, proprio dove l'ho indebolito che ho fatto il buco, si è spezzato. Così è già, sì, certo, metterò il tondino pieno d'alluminio è sicuramente decisamente più, è una soluzione valida, ottima, però cosa vuoi che ti dica? Certo, sicuramente mettere un tirante o dei cordini di tirante aiuterebbe a resistere al carico e sarebbero tutti lavorettini da fare, lo so. Niente, io l'ho piazzata così come l'azienda l'ha fatta, e uno ha piegato e l'altro l'hanno spezzato. E infatti non è che sono dei radiali che servono un po' come piano di terra, infatti non sono neanche dei multipli corretti, vorrebbero da almeno da 2,75 m come lunghezza, l'ideale sarebbe farli in fibra di vetro animati con. Vabbè, ma insomma, vanno bene, per quello che poi ci fai con queste antenne, che cosa fai collegamenti in città, se ci pensi quanti collegamenti, a meno che uno non ha passione di fare di ex, ma allora non si mette una verticale, magari si mette già un'antenna direttiva per questa banda, se no insomma per fare questi locali ti sentono a 9+20, a 9+12, a 9+18, a 9+11,2, 3,5, come alle volte sento dire, ridicolo. Va bene ugualmente, cioè l'importante è che uno ti ascolti bene e va bene, perché tanto anche gli indicatori dei segnali già sono tipo giocato con quelli radioamatoriali, questi della banda cittadina sono proprio così indicativi, ognuno gira le vite come gli pare, se lo mette a 9, l'altro se lo mette a 9+20, perciò i rapporti non servono a nulla, l'importante è che insomma è chiaro che una cosa è uscire con una boomerang, un'altra cosa è uscire con un'antenna sul tetto a 20 metri da terra che ha un interasse da 6,50 m, sono due risultati completamente diversi. Vanno bene, certo, ottimizzarla al momento del montaggio sarebbe l'ideale, mettere le bacchette piene sarebbe sicuramente molto meglio rispetto a quelle tubolari che sono leggere, che durano nulla. Sì, io l'ho fatto, però sai che cosa fanno le cornacchie? Io gli ho messo il tirante in cose verticale. Loro cosa fanno? Quando spiccano il volo, lo spiccano anche di lato, quindi l'hanno spezzata per quello, perché spiccano il volo di lato, me l'hanno fatto andare di lato, e così non tiene, perché di lato non c'ha nessun tirante. Mi capisci cosa ti voglio dire? Belli erano quelle crociere che si mettevano per tenere i radiali, c'è un'antenna, la Skylab, esattamente, se tu vai a vederla, ce li ha. La Skylab però c'ha anche radiali tipo Grand Prix, a parapioggia, diciamo così, non ce li ha come quella della Mantova 5. E niente, aveva questa crociera che teneva i radiali, ma era di quelle dure, no? Teneva i radiali perfettamente. Purtroppo vicino a casa c'è gente che dà da mangiare ai gatti, anche nel mio palazzo. Tra l'altro ti graffiano le macchine, ti pisciano tutto il coso dell'aria, che quello si può stare dall'odore. E abbiamo fatto anche delle segnalazioni al condominio, perché poi cosa fanno? Loro danno da mangiare ai gatti, però attirano le cornacchie. Le cornacchie vanno a mangiare, poi spiccano il volo e vanno sul tetto, e dove vanno? Sull'antenna mia. Così è già, cosa ci vuoi fare? Ci sono chi è appassionato dei gatti, chi è appassionato dei cani, quello che abbaia, quello che fa la pipì dappertutto, è un macello. Lo so, a me, ti ho detto, guarda, a me mi fanno costantemente danno, ormai non ci faccio più caso, fra virgolette, quando vedo che è caduto giù una cosa, poi ecco, quello che spero sempre è che non crei problemi ai passanti, perché quello veramente sarebbe terribile. E dopodiché niente, bisogna periodicamente salire su e fare e lavorare. Quando si ha la passione della radio, c'è anche questo grosso handicap che è della manutenzione delle antenne. La barra piena, il tubo, il tondino pieno sicuramente è la soluzione migliore. Invece di fare come hai fatto tu col bulloncino, basterebbe fare un forellino e far passare un pezzettino, un filo, un baico anche da 3 mm e poi chiuderlo col suo crimparlo, con il suo connettore, e fissarlo al tubo principale dell'antenna. Almeno sicuramente un po' di più tiene già, almeno un po' di più è resistente. La Skylab la conosco, fra l'altro era un'antenna che avevo pensato, poi però se per la sua forma e per le sue cose è un po' più fastidiosa nel montaggio del tubo, anche perché sul tubo ci doveva agganciare l'antenna da TV, altre cose eccetera, non era adatta. Ho preferito montare una, anche se so che funzionano molto bene quelle antenne. Adesso non mi ricordo chi è che ce le ha come in vendita e neanche quanto costano, ma non sono male come antenne, anche per collegamenti a lunga distanza. Ma le Skylab le conosciamo da vecchia data, Marco, io le conosco da tanto, per noi. No, io stavo opzionando per prendermi la G-Master che è senza radiali, per alleviare questo problema qua. Però siccome da me mi tira molto maestrale, me l'hanno un po' sconsigliata, perché mi hanno detto che come strutturata non è molto forte, capito? E quindi un po' solo così, sono indeciso se prenderla o no. Però come antenna va bene, perché ce l'aveva Salvatore dei Cappuccini, quello che era di Amatore adesso, ce l'aveva quello lì e gli andava bene, arrivava bene da tutte le parti. Sì, lo so, intanto la Skylab la conosco dagli anni 70, appena è venuta fuori come antenna, che tra l'altro il prodotto originale, poi adesso stavo riguardando i produttori che ci sono qua in Italia, no? La rifanno in Italia, ma questa antenna fu prodotta negli Stati Uniti, l'antenna era prodotta dalla Gain e poi commercializzata in Italia, e poi li commercializzava Buonanima di un carissimo amico di Milano, di Giovanni Lanzoni, Milag, che produceva anche piccole strumenti per le stazionarie, cose varie, poi è diventato un grande radioamatore, ma poi è diventato anche un negozio molto importante già dalla seconda parte degli anni 70, un punto di riferimento per i radioamatori. Poi però il brevetto era scaduto di questa antenna e ovviamente la poteva produrre chiunque, oramai la fanno tante aziende in Francia e in Italia, è un po' giro per il mondo e va molto bene. Niente, l'unico handicap che c'ha sono quelli che ti ho detto, e per quello che ho preferito quell'altra. Mentre non si conosco bene quell'antenna lì, perché un po' negli interventi che abbiamo fatto lì da casa di Salvatore, ho avuto modo di vederla, o anche avevo letto anche un po' in giro, in un primo momento anche a me poteva, mi sembrava che potesse interessarmi, ma non lo so perché non mi ha convinto, e ho sentito anch'io tante lamentele che si spezza la base, il supporto non è resistente, insomma un po' di lamentele, bisogna rinforzare, bisogna modificare, fare, non c'ho voglia, già c'ho già una marea di cose da fare, e se posso per queste cose un po' più spicce trovare già cose già fatte, preferisco piuttosto che mettersi anche a costruirla, che tutto sommato sono quattro spezzoni di capo, il RG58 dentro, il RG174, uno si potrebbe anche dedicare all'autocostruzione, ma se devo dedicarmi a fare qualcosa mi dedico a costruire qualche cos'altro che mi serve più, diciamo, più interessante, un po' più utile fra virgolette, che non cimentarmi utilizzando poi molto spesso dei materiali che sono quelli che reperisci qui su piazza, perché si usi una canna da pesca di quelle che normalmente trovi in giro, non è fatta per rimanere esposta ai climi che abbiamo, se la lasci esposta per i climi che hai dopo pochi anni si riduce in niente, questo è sicuro al 100%, perché io per una vita ho avuto sempre antenne e canne da pesca montate, sono 40 anni con le canne da pesca e dopo 3, 4 anni, 5 anni l'antenna si spezzava. Ho sempre avuto la verticale per i 40 metri, la verticale per i 20 metri, sempre costruite utilizzando delle canne da pesca di fibra di vetro, e perciò non mi andava a fare una cosa del genere, preferivo comprare una cosa in alluminio piuttosto che cercare di rabberciare quella vecchia già della Mantova che avevo, che era ovviamente come forse potrebbe essere la tua, già deteriorata, mezzo andata, inutile star lì a cincischiare con roba vecchia. Oh, che se poi ti metti la mia si può ristrutturare, non è che la scendi giù e gli dai una bella ristrutturata, l'antenna torna nuova, perché di cose grosse non ne ha, capito? Problemi grossi non ne ha, l'unica cosa sono le radiali, una lucidata, una pulitina e sta ancora andando, ma l'ho già accesa con Fabrizio una volta, l'abbiamo tutta quanta ripristinata, fatto addirittura, mi ha cambiato anche il capo, me l'ha messo più grosso, eccetera eccetera, però adesso i suoi anni di vita ce li ha già, c'è poco da fare, anche se c'è gente che ce l'ha 30 anni con l'antenna, perché poi la scendevano, la pulivano, la facevano, io l'ho fatto solo una volta, poi gli avevo passato tutta quanta la vasellina in tutta l'antenna, mi sono appentato, gli ho passato tutta la vasellina in tutta l'antenna, e poi quel grasso, quello bianco, non so se ce l'è presente, che non è isolante, è un grasso continuativo, cioè praticamente non isola, però ti isola dall'acqua, però non isola la corrente e tutte queste cose qua. E niente, ne ho passato tutte queste cose, cioè, e mi sono appentato a farlo. E niente, era uscita abbastanza bene, la lucida lucida, si vedeva da giù, sembrava, quando batteva il sole sembrava nuova. Questa è già, lo so, però è sempre un'antenna che ha i suoi anni, è come che prende una bella vecchia e la trucchi, la pettini, la fai, gli dà una cerbena cipaccata, ma è sempre quegli anni ha. Sì, può continuare a funzionare, ripeto, però non lo so, dipende da che cosa, da che tipo di intenzioni puoi avere, se voglia e tempo di fare questi lavori oppure prendere, buttare via e ricomprare nuove, è sempre una questione di punti di vista. Io la Mantova che avevo si era, come tutte le Mantova, si era sempre tutto corroso la parte del connettore, i radiali erano già andati giù, i tubi ormai erano tutti incollati uno con l'altro, anche se erano stati bloccati con la presenza della vasellina conduttrice tipo quello che hai usato tu, e anche se poi era stato tutto un attratto col vulcanizzante eccetera eccetera, ma i decenni l'umidità e cose varie comunque hanno fatto il loro percorso, e ormai il materiale non ha gli stessi risultati di rendimento, e pertanto era meglio, insomma. Buonanotte, sono Atturi, comprare la nuova e mettere un'altra in pianta, almeno per altri, per un altro po' di anni, insomma, perlomeno si è tranquilli. Ho cambiato apparato, mi direi un po' come mi stai ricevendo con questo, non so se se noti delle differenze oppure no. Sempre bene di radio, di segnale non se ne parla, Marco, perché tanto siamo troppo vicini, non se ne parla di segnale, ma la radio è sempre bella, non mi sono accorto manco che tu avessi cambiato apparato, sinceramente, non ci ho fatto caso, dico la verità, però niente, adesso vedrò, vedo di fare un po' di... controllare un po' cosa, no, ma rimetterla a posto non conviene, bisognerebbe cambiare tutto quanto, il mostro dovrebbe attaccare il radiale, quello lì dovrebbe cambiare, dove attacca il piede il radiale, quel mozzo lì, se trovassi uno quel mozzo lì, il resto va tutto bene, perfetto, non è né piegato né niente. Quel mozzo lì ci vorrebbe dove attaccare il radiale, se ci fosse qualcuno che ce l'ha, sarebbe Andrea Down. Ho capito. La radio adesso è una è un Pluto Galaxy. Sì, già, vabbè, cosa fai lì? Se trovi uno che ce l'ha, quello lì perché ce l'ha perché è caduta l'antenna, che c'ha problemi, ci avrà sui anni anche quello, insomma, sarebbe un lavoraccio inutile, fra virgolette, insomma, cioè, non lo so, è così, vedi un po' tu, ripeto, poi ognuno magari decide di fare un percorso piuttosto che un altro. Adesso stavo guardando di queste Skylab, ce ne sono in effetti prodotte da diverse aziende, comunque era un'antenna valida anche quella, ma ho preferito rimontare una 5 ottavi così come, e ti ripeto, anche quella Tornado che costa, tutto sommato c'è anche un ottimo prezzo, non è male, anche meccanicamente come fate, ti hanno anche i cappucci di protezione fra un elemento e l'altro, disgiunzione dello stilo, insomma, fatta benino, anche quella qualche piccola modifica bisogna farle nel montaggio, perché a me queste vitine autofilettanti non mi sono mai piaciute, preferisco sempre un po' serraggi un po' più sicuri, un po' più forti, perché per esperienza queste vitine come oscillano, cioè tendono a svittarsi nel tempo, preferisco sempre un bloccaggio un po' più forte. Comunque non è male quest'altra antenna della Tornado. Sì, l'ho vista. Infatti stavo facendo un pressino su quella oppure sulla Game Master. La Game Master era un'antenna che al suo tempo costava oltre le 200 euro, adesso ha calato tantissimo di prezzo, costa 158, 157, qualcosa del genere. Prima costava un sacco di soldi. Aspetta che accendo un altro vecchietto, dai, così faccio funzionare un'altra radio, aspetta un secondo. Sì, poi l'accendo anche io, dai, cambio radio anche. Marco, già mi sta funzionando, vediamo un po' se funziona. Sì, è presentissima come radio, questa funziona, sì. Oh, già, prova. Alla grande, va benissimo. E questa mia? È una radio presente, forte, cioè chiarissima, non è niente da dire. Questa forse c'ha più di 40 anni già, questa c'ha più di 40 anni, mi pare sia il 74 forse, o 75, non vorrei dire, ma mi pare che sia più o meno in quel periodo lì. Radio è? Il Comstat, il Lafayette Comstat, valvolare. Ecco perché sentivo la voce calda. La voce calda proprio dalle valvole e del valvolare, sì. Ma ne sono accorto che la voce era presente, bella forte e calda era. Ancora bisogna lasciarla andare, questa ha bisogno di riprendersi un po'. La tua è lo stesso, amplificata, molto bella, va molto meglio, veramente qua cambiando radio poi possono cambiare, il discorso dell'ascolto è differente. Comunque questa tua emissione va molto bene. Questo è un Midland, modifichi qui. Va benissimo. Qua sul Contact c'è montato il Turner Plus 3, la versione che ha la scritta per esteso, non col numero 3. Guarda, attenzione Marco Scorpion, se ascolti il doppio run che parla, cambio. proprio da camionista già, proprio da camionista. E questa qua è quella che usavo in macchina. È una barca di soldi questa qui, l'avevo pagata per farla. Questa radio qui ci vale 400 euro, tra lavoretti e tutto. Sì, sì. Ho visto tante cose così in vendita, è veramente un po' da fuori di testa, investire tutti quei soldi. Comunque, come abbiamo detto prima, è solo una questione di passione, di preferire una cosa piuttosto che un'altra. Qua la cosa che ti riempie il cuore è questa lucettina che c'ha poi il Comtat sulla destra, e quando va in trasmissione, a seconda dell'intonazione della voce, diventa più rosso o più arancione. È commovente questa radio, 82, 83, 84, non ho la data precisa di produzione, ad oggi sono tanti bei decenni che sono passati, mamma mia. Anche io, questo Alan 48 che c'ho, Marco, questo qui praticamente ha fatto la guerra, è dei primi usciti, i coperchi sono stati riverniciati, eccetera, sempre del colore originale però, sono uguali all'originale. E niente, fa molto bene, se poi lo vedi com'è fatto, si accendono tutti i pomelli, allora quando sono a blu, quando parli diventano rossi, lo smitter è blu e anche il colore dei canali è blu. QSL, aspetta, mi sono spostato, volevo accendere un altro vecchietto, aspetta. Lascio scaldare un po', intanto è già pronto. E ho capito, insomma, che avevi voluto fare uno di quei veicolari da competizione. Vieni qua, per suonare come siamo messi. Pochissimo QRN, quasi silenziosa la frequenza. Yeah, è vero, sì. Adesso ti arrivo. Visto Marco? Marco, fa la DG. Perché regolo questo, regolo. Attenzione Marco, mi ascolti, cambio. Ora. Marco. Attento Marco, stai scendendo un basso di radio. Hola. Attenzione, binario 10, ascoltate il doppio run che chiama, cambio. Marco Scorpion, che fine hai fatto? È adesso stesso. Hola. Marco, ci sei? Marco Scorpion, cambio. Marco, ci sei? Innescando, che hai fatto Marco? No, niente, già, aspetta un attimino, non posso rispondere, stavo facendo dei collegamenti, no. Un attimo già. Assolto. Tu lo stai uscendo, ma ecco, stazionaria zero, come mi senti già? Ah, non bene, bassottino, voce citofonica, prova. Ecco, aspetta che dovevo passare un po' i volumi, dimmi un po' come va con questo? Erano meglio gli altri, dico la verità, come a radio. non è male, ma è un po' citofonica la radio. Le altre erano meglio, secondo me. Io adesso ho aumentato la radio, dimmi come va così. 1, 2, 3, prova, cambi. Amplificata, benissimo. Amplificata, chiara, però perfetto, va benissimo. Aspetta che stavo guardando il video tuo. Questa è un base della il Galaxy Saturn. No, quello lì è il 48 che ti ho mandato, quello che sto usando adesso. Visto hai? Sì, sì, sì, sì, carino, carino, diventa rosso quando va in trasmissione. Con questo microfono il Comstat va molto ma molto meglio di tanti altri, compreso questo. E il Saturn, ecco, quello credo che sia tipo quello che hai tu. Io c'ho il 2, il 5 stelle c'ho io. 5 stelle, sì, 5 stelle, come questo allora. Come questo, ce ne ho due uguali, 5 stelle. Uno c'ha delle connessioni fatte per questo microfono e l'altro non so per quale motivo, forse l'avevano cambiato le connessioni. Monta un altro tipo di microfono che è sempre adattato. E invece ne ho uno e non funziona nemmeno la CD. Però aspetta, secondo me la batteria scarica comunque. Aspetta, ah no, posso mettere, ah ecco, adesso così come va già? C'è un'altra storia. Adesso com'è con questo livello così? Aspetta, così come modulazione come va? C'è forte la modulazione, prima era debole come modulazione. E la mia, la radio, chiara è questa? Sì, chiara, io abbasserei leggermente l'eco, se lo puoi regolare, e va benissimo, va proprio bene. In questo caso invece questo facendo sentire l'eco suo, quello che hai in dotazione, perché questa era immacolata come radio, proprio immacolata, di nome di fatto. Ma con l'eco non si capisce molto, si sovrappongono le parole con l'eco, è meglio senza. Difatti, così è senza, è Mackie Gain, è tutto al massimo, è la potenza è quella che può dare l'apparato. È nero, già, sembra acquistato ieri. Sì, è nuovo lo stesso, non c'è un graffio, niente. È nuovo anche dentro, non è mai stato toccato questo qua. Non è di quelli che giravano a Sassari, hai capito? È da fuori che è venuto, quindi no, è nuovo. È sempre andato bene questo qua. È il K. Questo uguale, nero, soprattutto ha mantenuto inalterato il colore nero delle manopole. Perché ad esempio l'altro che ho, che comunque non è male, ma le manopole sono la parte centrale delle channel, è un po' la brunitura è di diverso colore, mentre questo qui è proprio completamente nero. L'unica cosa che ho dovuto fare è sostituire le lampadine e poi che cosa? Ah sì, c'aveva un potenziometro che non funzionava, che è stato che Fabrizio fra l'altro l'aveva cambiato e basta, poi non c'è niente, poi lui è così come mamma l'ha fatto. Ma a me me l'ha detto Fabrizio, il mio ha una fesseria, deve essere qualche cosa nel modulatore o prima del modulatore o proprio il modulatore. È una fesseria da fare, però ci vuole il tempo anche per quello. Poi essendo grande Fabrizio, se sta facendo altri lavori non ci sta, è un casino, c'è poco spazio. Adesso difatti doveva fare dei lavori, so che era molto impegnato, ho visto, ci vediamo costantemente con Fabrizio, c'è un sacco di cose da per la testa e vabbè. E sai, una fesseria già, come sempre sembra una fesseria, non è proprio, perché poi devi smontare tutto, togliere le manopole, fare, togliere il frontale, aprire, non è proprio una fesseria, perché anche io qualche cosettina la faccio, non ho strumentazione per fare interventi complicati o dove serve comunque avere un generato di segnale o un oscilloscopio, non ho niente di tutto ciò, ma piccole cosettine me le faccio da solo. E comunque ci vuole sempre del tempo, devi avere lo spazio a disposizione, aprire, con ordine, insomma, non è una cosa da poco, anche perché comunque sono cose delicate, si un attimo graffiare un frontale o delle manopole o creare comunque un problema. Oh là là, buon anno, buon 2020, Quindi ciao Tino, ciao, grazie altrettanto a te e la tua famiglia. Ciao Marco, ciao Gianni, c'è l'altro? No Tino, se non ci sono gli ascoltoni non lo so se ci sia altra gente. Ciao anche a te, buon anno, ben sentito, avanti. Ciao, positivo, no, io mi sono appena seduto, ho acceso la radio, ho visto, anche se la verità la radio era già accesa, ho fatto il volume perché ho visto la porta dentiglia e quindi ho detto c'è qualcuno. Tino, ma non è un segnale da casa Duia, se è lo stesso, perché abbiamo messo a posto l'antenna con Claudio. Sì, lo so, 9:20, 9:21, giusto per darti qualche silenzio. Già va bene allora, dai. Più o meno lo stesso segnale di prima. Sì, arrivi un pochino più forte di Claudio. Claudio arriva 9:20 sul parlato. Vabbè, questo qua è il Midland, quello Hubbard. Ho capito. E tu Marco, cosa stai usando? Che hai una radio differente dal solito. Il Saturn Echo T, quello nero, quello rack, quello grande, con il Turner Q3. KK, infatti non era una radio, diciamo, come si dice, aggracchiante come al solito, o squillante. E io con che segnale arrivo lì, Tino? No, arrivi quasi 9:20, non ci arrivi ai 20, neanche sul parlato. Prova, verifico meglio. Guarda un po' che arriva, con che segnale ti arriva invece Claudio e Gianni. Allora, tu arrivi lo stesso identico segnale di Claudio, fai da 9:15 a quasi 9:20, mentre invece Gianni è un pochino più forte. Cappa. Beh, lo sai, che poi, vedi com'ero, non mi ricordo dalla posizione tua, vabbè, poco male. Gianni, quello lì quanti watt dà? Quanto questo o di più? Vabbè, ma per la posizione, tu immaginati la veloce, vai verso Portamona sulla destra appena, così ti ho fatto una diretta di dove sto. Perciò dovrei, comunque sono in una posizione favorevole nei tuoi confronti. Sì, va bene. E guarda, Claudio ha il segnale tuo, però credo che sia leggermente più spostato, più indietro di te, dai. Anche se magari l'altezza è differente. KQSL, probabilmente il segnale mio, essendo più in alto, ti scavalca e va oltre. Bisognerebbe capire, magari sentendo qualcuno che cos'è, se poi è a Fintino, magari, o a Porto Torres, vedere con che differenze si arriva lì. Mentre cambio radio. Arriva con segnale superiore o uguale? No, Gianni è superiore, Gianni fa 6:20. KQSL, perciò vedi, è più basso e perciò è più riesce, con onda di terra riesce a arrivarti meglio. Aspettate che adesso provo il fratellino di questa serie qua. Sì, vabbè, tieni presente anche che Gianni è più vicino, è molto più vicino a me. Avanti Gianni. Cambio radio. Questa come va? Fai che non stavo guardando, prova. 1, 2, 3, 4, 5, questo qui è il Cora. 9:25 spaccato. 9:25 spaccato. Con meno sticchi di dito tu. Uccellaccio. Con meno di modulazione, però 9:25 in pieno. Uccello c'hai. Che uccello c'hai, che domanda mi fai? Sul personale non voglio andare. Avanti, chi chiama? No, deve essere Marco. Aspetta che ho acceso questo, non so come sta andando, come è messo. Hai un leggero effetto ecco, basso del radio, quindi potresti anche aumentare, segnare è un similare. Leggero effetto, ecco, adesso ho abbassato. È scomparso? Sì, però la radio è bassa, in confronto a prima. prima. Questo è un altro microfono, questo è un M500, la modulazione di quell'altro è più performante, è vero? Al mio orecchio sì, io parlo dalla sua prima radio a questa, senza fare volume né niente, quindi ho fatto una comparazione di radio tra le tue senza toccamente. E il segnale invece, sì, ci sono differenze, la potenza qua lo sai, non posso regolare, cioè sì posso regolare, ma sono tutte e due al massimo e non so, però se fra l'uno e l'altro c'è, trovi differenze di segnale. Sì, questa è leggermente più bassa, questa fa 9,15-9,18 massimo. Ho capito, perciò leggermente più bassa di modulazione, vabbè questo poi dipende dal microfono, che questo qui in effetti non so neanche, vabbè sta funzionando ma anche lui c'ha i suoi anni, quell'altro è il più 3 è sempre un pochino più forte come tipo di modulazione. Sì, sì, poi non so se Gianni ha notato qualche cosa, Gianni. Sì, ma nel frattempo ho cambiato il radio, quindi non ti posso dare nessuna cosa, dovresti fare i due passaggi adesso perché sono con un'altra radio, ti sento diversamente, capito? Non so tu come mi stai ascoltando, però adesso ho attaccato il Cobra. Ma era meglio l'altra, era meglio l'Abarth. Vabbè, bisogna farli girare tutti però. Questa qui non è bella la radio, vero? No, è un po', spinge un po' più le medie, è un po' più ovattata. Quell'altra è la più squillante, è la tua voce, più amplificata è migliore. Aspetta che provo a ritornare alle origini. Appa. Arrivo, sto salutando, sto arrivando un attimo. Via. Sì, a me che giochiamo con queste cose. Adesso com'è questa? Cambia il muove, andiamo, cazza! Sì, buonasera, chi è? Ciao, buonasera, amico. Adesso ho cambiato, già. Come ti sembra codessa? È quella? Anche questa qua è accettabile, dai, è forte. Luca! E Lu! Ciao, buonasera. Marco, questa è più performante, davvero 9,20. Un attimino che sto salutando e arrivo subito. C'è gente. Attendi. Ciao Luca, tanti auguri, buon 2020 anche a te. Ciao Marco, se mi ascolti, salutoni anche a te, auguroni. Mi è appena rientrato da Alghero, dai. Sono andato a farmi una passeggiata. Bella giornata, c'era un bel po' di caldo, avanti. Bellissima, è vero. Mi stavamo parlando prima, ho detto oggi è la giornata che permetteva anche di salire sul tetto a fare le gatte, a fare un po' di lavori, ma non era il caso, non era proprio il caso. Oggi relax qui a giocare con il radio, qui con Gianni è da sarà un po' un'oretta almeno che siamo qui a giocare, attacca questa, stacca quella, prova quella, mi senti bene, non mi senti, e così, come si fa? Luca, arrivi bene, 9,10, ma segnale così dato da questa radio, è modulazione amplificata, vai benissimo, alla grande. Io come vado? Buonasera Luca. Sì, allora, va bene Marco, va bene, anche tu arrivi bene, già lo stesso. Ciao, troppo eco però, hai abbassato un po'. Oh Luca, e io invece, ma dove sei? A casa tua? No, sono da Maria, 9 spaccato. Perché mi sembrava strano che andare. Così bello sono lì. Ma che antenna sta usando? Un'antenna? Un radiale di manto qua, sto usando. Mi sembrava strano, perché se metti l'antenna sul palazzo ti faccio girare il televisore. Purtroppo a casa ho quel problema là, mi arriva quel segnale lì, non so se dipende dal baracchino. Devo trovare il tempo giusto, anzi, la faccio domani. Sono, ma come faccio? Sono le 7, mi sa che me lo porto a casa questo qua, lo attacco e voglio vedere la differenza da uno all'altro, dai. Se ci sei più tardi io faccio cena, poi mi faccio accompagnare dalla 25, facciamo le prove se vuoi. Tranquillo, già sono qui, non c'è problema, fammi tranquillo, non ti mettere problemi. Vabbè, dai, un typhone già, questo è il typhone, quello che c'è a casa è il typhone 2. Hai due typhone. Ehi, uno modificato a Colt e questo è normale. Faccio capito. Ma tu ne avevi preso un altro di quelli modificati, il typhone era oppure un altro apparato? Il typhone già, typhone 2. sono uguali, uguali, più ciccati, solo che quello là ha una banda in più, dai. Questo ne ha 5 di bande, l'altro ne ha 6. Dai, già io sono appena arrivato, un attimino mi assento, poi me lo porto a casa e facciamo le prove, dai. Volevo vedere il problema, dove sta, se sta sull'antenna, sul capo, boh. Mi assento, riprendi tu già. Ehi, non so come ti sto arrivando con questo apparato qua adesso, ho provato a regolarmi la microfonia, vediamo un po'. Sì, su più del più 30 già, segnala la radio già va bene, là, va benissimo. Va bene, questo qua è il Cobra che non usavo già da un po', adesso bisogna farli girare tutti perché se no mi si guastano, come mi si è guastato il Galaxy che era fermo a troppo tempo, non stavo modulando e quindi come l'ho acceso è partito. Il Cobra non è un serpente. Quello lì già, va bene, io non riesco più tanto la radio, ma sono i miei gusti. Quello lì è il Cobra, quello non era quello digitale. Quello che piaceva a te Tino, che ti volevi ordinare tu. Io gli ho attaccato adesso il Proxel, però c'è anche il suo microfono originale. Infatti, ho fatto bene a prenderlo però. No, senza offesa, mi piaceva, credimi Marco, mi piaceva in primo periodo perché l'ho visto, bel disegno di Ferrari e tutto quanto, però effettivamente non mi ha soddisfatto dopo che ho sentito a Gianni come usciva in radio. Lo provo per prendere, credi. Beh, magari la mia voce, cosa vuol dire? Magari la mia voce, se lo usi tu, magari cambierà la timbrica. Boh, non lo so, aspettano, così almeno lo provo io e vediamo se mi convinci, ma penso di no. C'è attaccato, questo qui non si può togliere. Nei ripiani io li ho attaccati tutti con quella, col biadesivo, di modo che non si muovano, stanno fissi e buonanotte. Poi se li devo togliere devo svitare, fare, niente da fare. Vabbè, resta qua tutti i dì. Togli tutto Marco, non si capisce niente, togli tutto. È quasi comprensibile. No, no, non ci sei ancora. Sempre lo stesso. E quasi ci sei ora, Aspetta, adesso a questo qua gli attacco un altro microfono, vediamo un po' come mi senti. Aspetta, io ho i cani memorizzati, aspetta che vado con il frequenzimetro, tu parli, e così però mi devi lasciare un attimino, Ancora no, sei a 74, a 75. 5-6-18. Si prova, guarda, 1-2-3, questo qua è l'altro microfono che sto usando. Innescano un po' perché aspetta, devo abbassare appena appena il mic. Ora, guarda, così dovrebbe andare bene. Controlla a vedere come va con questo microfono che mi sembra che vada bene. A mio parere già, il microfono va bene, hai ancora un leggero innesco di sottofondo, hai abbassato moltissimo però il mic gain, prima eri più forte. Quindi così aspetta, abbassa appena appena. No, fai sempre innescando. E dai, devi attaccare l'altro, perché tenerlo in mano il microfono da tavolo mi viene un po' male. Va bene, comunque andava bene come microfono. La chiave per questo piccolo innesco che insomma rovinava un pochino. Allora, l'innesco è quando c'è il matrice in al massimo. Praticamente non resiste sia il microfono che il microfono al massimo. Devi regolare. Lo so prendendo, eh? Quello lo so perché l'ho già fatto. Il microfono che io uso, non ti capisco. Con Galassi va bene. Dovrebbe andare bene anche con quello. L'apparecchio non è male. È il microfono che questo qua è un po' da dritti, capisci? Che cosa hai fatto? Perché già? Che microfono hai messo adesso? È il suo. Il suo? Io qui ho cambiato radio. Pino, migliorato di segnale, di modulazione, che cosa hai avvertito nel cambiamento? Dal giorno alla notte. Non è possibile. Tipo, fammi capire. Mandami un piccione viaggiatore con un messaggio. Allora, aspetta che vado a prendere il telefono. Comunque te lo dico già in diretta. Allora, se 9:22:23 circa, non arrivi ai 25, però la radio ha cambiato tantissimo e ha migliorato molto il segnale. Certo, devo lasciare questa, non c'è verso, devo lasciare questa qui allora. Questa è vecchia però, Questa è, sono ritornato al Comstat, al valvolare. Vabbè, hai visto. Ma se riesco, vabbè, ma sono tutti bassi quelli che io non ho radio aiutati a parte il brutto, che è un po' diciamo specializzato, gli altri sono normalissime, diciamo. È troppo amplificata per adesso la provo, una corda canale, niente di che. Piazza Pluto, guarda che poi ti rispondo di Pluto anche io, occhio. Ecco, questo forse non riesco però, eccolo qua, vediamo, ecco, vediamo un attimino se mi ricordo che cavolo era. Oh, ora l'ha tolto? Sì, l'ha tolto. Fa una cosa, togli anche a Pluto. Aspetta che sta... Oh. Da un po' che no. Perché sto innescando? Porca miseria. Aspetta. No, sto innescando perché dovrei togliere connessione al microfono. Però... carottino, ma andavi meglio con l'altro, Pluto è da guardia, tranquillo, ma non c'è verso. Buttaci tutto. E allessimi. Ci sono? Sonfonio. Hola. Ci sono? Hola. Ma sto uscendo? E via. E com'è questa, com'è? Più bassa di radio. Massa. È più forte poco fa di radio. Ciao Antone, tanti auguri. Vabbè, questa è... 40 canale normale. E allora già sta andando bene, a voglia. Sì, buonasera. Buonasera Gianni, anche a lei, invece titolo. Auguri, buon anno. A te 80. Scusi di che costo? È sicuro. Conta muro. E la voce di Pinculo, diceva quello. Ciao Lesi, ciao, buonasera e ben tanti auguri, ben arrivato. Ehi, ciao caro, mi sentito anche a te. Marco. Eccolo. Ecco, questo è 4 watt, 4 watt e pulizi. Sì, ma questo esce bene come audio, mi sembra valido. E questo è una cosa storica. Vedi, le cose vecchie alle volte vanno meglio delle nuove. Questo va bene, modulazione bella, amplificata, chiara, la sua. Questo è quello 23 cavi, Guarda che qui c'è, vanno tutti bene, sai che ne ho anch'io qualcuno, dovrei averla, adesso non mi ricordo se l'avevo da qua, è una specie di Catalina 23 da rimettere a posto perché c'è un po' di problemi eccetera, esce perfetto, c'è una ricezione che è fantastica e anche in trasmissione è un bombò. Share, vanno bene, questi share vanno bene. Vabbè, non mi hai detto niente, perciò non ti sei accorto neanche che ho cambiato radio, questo è sempre una di quelle del passato, è un Realistic, è un Navaco, Realistic Navaco, questo diventa rosso come il tuo quando va in trasmissione. Già l'ho visti quelli lì, me ne hai fatti vedere tutti, a me è già rosso. Diventa rosso, quel qui che è tipo il tuo, diventa bianco quando è in ricezione. Originale così, era fatto così, non è che è stato manomesso, e il microfono è il Turner più 3, però con la scritta più 3 come numero invece di essere scritta in lettere. Ma a parte Alessio, era entrato qualcun altro, mi sembrava la voce di Natalino, ma stavo scambiando con i connettori e non vorrei dire una fesseria, se è lui di Natalino. Non ti ho detto niente perché ho cambiato radio, quindi non avevo notato la differenza, però adesso già la vedo. La radio è giusta, Tino. Giusta ti la radio. E cos'ha? Ha problemi. Ma perché sto facendo male, Gianni? Ora un po' stava strappando. Ma cosa sei, col che? Come poc'anzi. Forse troppo alto, aspetta, ma si è. Ne avete poco in stoppa. Avete parlato in due. Adesso va bene, quando avete parlato in due, più lontano stavi parlando. Sì, dai. Cos'è qua? Cani, avete poco di stoppa. Buongiorno, buon anno a tutti, dai, sono entrato solo per salutarvi. Mi stavo ascoltando, ma non posso trattenermi. Ciao Marco, Tino, Alessio, Gianni, poi chi c'è, non lo so, vabbè, comunque. Buon anno a tutti e buon divertimento, state uscendo tutti bene, magnificamente, quindi va bene così. KK, un abbraccio a tutti e buon anno, ciao. Ciao Claudio, dai, buon anno anche a te famiglia. Avanti sti. Bene, no, pensavo che stavo facendo male perché questa radio, vabbè, qualche piccolo difetto ogni tanto già lo va, però pensavo che effettivamente, ma vedo che è tutto in ordine. Stai andando bene, non ti preoccupi, va bene così. Va bene, sì, va bene, ciao Claudio, tanti auguri. Va bene, sì, Claudio arriva sempre bene, forte e chiaro, non c'è problema, auguri, buon 2020. Alessio lo stesso, non gli ho dato rapporto, arrivava benissimo qua, è inutile dare segnali, sono tutti oltre 9 più 20, lo strumento è quello che è, sono cose giocate di Natale, perciò ottimamente. Gianni, non so che cosa stai combinando adesso, o poi ci dirai. Io Marco, sempre vintage 430, TS430, col mitico MC60, fino a quando funziona lo teniamo, se no poi lo mettiamo nella vetrina anche questo. Sì, se no qua c'è il posto, mi ha posto del Galaxy, quando me lo stanno riparando mi metto lui. In AM sono rimasti sino a quella serie lì, della serie 4. Vabbè, anche la serie, beh, sempre 4 però, il 450, il 490, come si chiamava l'altro che c'aveva anche 6 metri, 490, 480, andavano bene, poi però gli altri, punto interrogativo, anche la serie 9 però, la verità, io avevo il 940 e anche col 940 andava bene, le altre aziende, Kenwood e Icom, non sono mai riusciti a farli funzionare così tanto bene come quelli, con solo l'MC60, un bombo. Io guarda, c'ho lo Iaesio che funziona da benissimo in AM, mentre l'Icom 756 non mi piace la modulazione, assolutamente, non 80 poi l'avevo dato, perché insomma ne avevo trucchi, però sono mitici, e mi vanno benissimo. Questo 430 funziona ancora, funziona. Lo alterno un po' col 440, ma vanno bene tutti e due. Dai, un abbraccio, grazie Marco, buon inizio d'anno anche per te, famiglia, come a tutti voi, devo uscire. Sono fuori a cena e quindi devo scappare. Allora, oggi ci siamo dedicati all'uscita, gli altri giorni li abbiamo fatti a casa, dai. Ti lascia così che fai bene, Tino, lo stesso, state andando tutti bene, tutti KK qua, oltre 9 più. Ok, Tino, a te il cambio, vi saluto tutti, buon proseguo di serata, ciao ciao. Bene, di nuovo mangiare, stai andando di nuovo a mangiare, ma non ti basta. Saluto in casa, buon 2020 anche a te e per tutti, dai, salutami la ciurma di casa. Ciao a te, tanti saluti anche da Mariolino, ciao ciao. Eia, salutano, ciao ciao. Ah, ciao Claudio, comunque la battuta mia non l'hai sentita, ho detto che fra poco qua c'è uno spazio libero perché mi devo aggiustare il Galaxy, quindi se il 4.30 è in TV c'è lo spazio qua. Ho detto di sollevare quella mensa, Lattino, ma Gianni, solleva quella mensa che lì il DAC non passa, capito? Non passa, te l'hai visto, rimane troppo cugnato. 4.30 ci sta. Sì, 4.30 ci sta, però io ce li ho. Ora se ti faccio la foto ce li ho, allora c'ho il 430, il 440 e un altro 440, sono tutte e tre in fila, linea completa. E sotto, sai, quella è la 27, e poi sopra ci sono quelle amatoriali. Però il DAC l'ho dovuto togliere perché da quando ho messo il computer nuovo, praticamente me lo sono messo nello spazio dove lo posso usare, perché prima era nell'altra base, quindi me lo devo girare e fare. Adesso c'ho tutto l'avanti, e quindi ho eliminato il DAC. Se tu fai lo spazio lì che sollevi con la mensola, no? E lo sacchiamo lì dentro. Va bene, dai, le radio sono belle tutte, basta tenerle. E fino a quando funziona? Io Marco sto sperando il 910H su in continente, è diventato sordo in ricezione. Non l'ho spedito in questi giorni di festa, lo spedisco praticamente dopo l'Epifania, così mi ha detto. È diventato sordo in ricezione, tutto così un colpo, praticamente l'ho spento, stavo modulando sull'R7 Alfa con Domenico, quindi niente, siamo saltati, l'ho spento, le domani vado ad accenderlo, c'era stato quel vento forte eccetera, quindi pensavo fosse qualcosa sull'antenna, al che ho verificato con l'820H e con 275H, l'antenna non aveva niente, e quindi è calato praticamente di segnale in VHF, non so cosa sia successo, lo sto mandando da Marco alla CSON, speriamo che non mi prenda per i capelli, ma comunque non so cosa sia successo, manca, si è zittito in VHF solo in ricezione. E così è, queste radio dopo un po' di anni incominciano a dare problemi, ma è ormai è il consumismo, le radio sono fatte con componenti che hanno un inizio e una loro fine. Componenti dei decenni passati duravano molto di più, adesso la nuova tecnologia è così, non permette una durata più di tot, addirittura in molti casi si pensa che ci siano delle scadenze programmate per le apparecchiature, qualcuno ha già preso qualche grossa sanzione dalle autorità, lo fanno apposta, perché così si è costretti a sostituire, non c'è possibilità poi di ripararlo, perché ti dicono che ormai è vecchio, non ci sono pezzi di ricambio e si deve fare il loro gioco, ti costringono a regalarla, a buttarla magari con 10 centesimi di condensatori, si può riparare, però questo è il consumismo, queste sono le radio più, andremo avanti e sarà sempre peggio, è sempre peggio. adesso è come hai detto, poi sei nelle mani di CSO, quello che decide ti dice se vuoi 200 oppure ti dice che si può riparare o non si può riparare. A tuo padrino una radio gli avevano detto, non loro ma altri gli avevano detto, non si poteva riparare, e invece poi un altro tecnico l'ha riparata, ecco, mi pare con 60-70 euro e l'ha rimandata a posto perfetta, capito? È così. Sfortunatamente questa è la storia, K. Sì, scusate, poi vi lascio. Sì, Marco, ma è così, ma tu immaginati, 910H l'ho comprato 2 anni fa, praticamente in garanzia, perché era nuovo, un avanzo da loro, dalla CSO. Capito? 2 anni fa, forse 3 anni fa, non, ma 3 anni non ci arriva, nuovo, dentro la scatola, si è zittito così senza dirmi, mi ha detto ciao e basta. Io c'ho il 275H, Marco, che tu conosci bene e stimi tantissimo, ce l'ho una vita, non anche quello una volta mi si è abbassata la potenza e l'avevo mandato allora dal povero Bianconi, povero, dico, non è morto, però si è ritirato, anche lui c'ha la sua età, e me l'aveva rimandato giù, ha detto ma no, non conviene, guarda qui e là, tiene la pezza di cambio, 275 che lo tengo a pezza di cambio. Lì parlando con Fabri gli ho detto ascolta, così dammelo a tempo perso, vedo cosa c'è. Gli ha messo mano Fabrizio, non dà più 100 watt, ne dà 120, capito? E ti sto parlando di 4-5 anni fa, e la radio è sempre perfetta, l'820H che è simile al 275H, però è al doppio display, lo stesso comprato da uno che non l'ha mai usato, sempre funzionante alla grande. Compro il 910H che in pratica è quello che dovrebbe essere ancora superiore a questi due, e invece ha detto ciao, arrivederci, buon viaggio. No, lo ripariamo io alla grande. Mi ha già detto che non è un grande danno, che comunque dovevo mandare per controllare, per vedere, può essere anche se è partito qualche diodo sul ricevitore, qualcosa così, che abbia preso qualche, lui dice, qualche colpo di no, non ce n'è qua colpo di grazia, perché le radio nei tempi brutti sono tutte staccate, senza alimentazione, senza antenna, sono appoggiate lì e basta, poi magari mi metto piano piano, le collego man mano che mi servono a tempo buono. Vabbè, è andata così, dai. Di nuovo, non vi tolgo, come si dice, non vi disturbo più, dai, che sto andando. Ciao, il cambio per te Gianni, buona serata a tutti e rinnovo gli auguri a tutti. Buon 2020, ciao a tutti, vai Gianni. Sì, ciao Corio, buona continuazione di serata, ci sentiamo, divertiti. Avanti, Tino. Ciao. Buona serata. Marco, ti ho mandato l'uccello viaggiatore, ma quanto fa? Non vuole partire, non so. Aspetta, adesso guardo, c'ho il telefono di lato, aspetta, non ho sentito perché ho tutte le suonerie in mute. Ho capito. No, giusto così. Bene. No, questa ogni tanto fa qualche capriccio, infatti quando sarà la devo portare al restauro, ogni tanto devo sbattergli appena appena il coperchietto sopra, perché non so cosa sta succedendo. Ogni tanto quella schiaccia la portante e non esce. Gli do un colpetto, ma un colpetto giusto, una caretta più che un colpetto, e riparte. Non so, ci sarà qualcosa di saldatura fredda, qualche cosa che non fa ben contatto, non so, io non sono del mestiere, non saprei cosa, magari sto dicendo anche cavolate, comunque funziona così qua. Vai Gianni, dai. Sì, ogni tanto io lo stesso l'ho lasciato fermo il gas, non c'aveva nulla, e come l'ho riacceso mi ha fatto il difetto, probabilmente anche lasciandole ferme le radio che si rovina. Ci sono ormai tipo i Midland che pure sa 30 anni, dopo le accendi e vanno bene. Queste qua ogni tanto bisogna accendere, sennò alla fine se ne vanno in malora, tutti i componenti si esauriscono più. Ma tu pensa che io ho un Midland, l'hai già rivisto anche tu, anzi tu mi hai dato la mascherina quella che avevo cambiata, dall'88, grazie a Dio non è successo mai niente, anche se un pacchetto di sigarette, nel senso che è piccolo in confronto a questo, è quello che utilizzavo in macchina e va sempre bene. Ottimo, sì. Bella modulazione, funziona bene quella radio, ma lo sai che quella lì è una di quelle che uso normalmente come apparato base per la 27, oppure l'altro preferito, come diceva Gianni, è il Saturn Echo, però quella lì va molto meglio. Il Comstat lo uso, ma ogni tanto poi c'è qualche problemino e devo lasciarlo acceso per mesi continuativamente prima che si riprenda tutta, perché se no, cioè, come gli anziani, fa male una cosa, un'altra ancora e non riesce a fare un questo completo, mentre quella lì funziona sempre, credo che funziona sempre. Per quanto concerne questi problemi, ragazzi, non c'è niente da fare, i componenti si invecchiano e ti mollano, in qualsiasi momento ti può mollare qualsiasi radio. Difatti Walter ha fatto un contratto col diavolo e deve campare 2000 anni per poterle accendere tutte e usarle tutte senza problemi. E non so se tu hai saputo, ha chiesto anche una mano ultimamente anche a me, perché non so se ce la faccio da solo, vedi che ogni tanto prendi una e farla funzionare. Infatti anche da poco stavamo ridendo su questa cosa. Mi ha detto: ma quanti anni dovremmo cantare per far funzionare queste radio? Ho detto: cosa adesso già non ce la faccio io, accendere le mie, smonta, fai, sposta, rimetti, riattacca, è così. C'ho delle radio qua, adesso c'è il tram che è quello più grosso, il più bello di tutti, è la radio più bella che ho, che è un bestione, era una radio che costava negli anni 70 costava quanto 10 stipendi di un dipendente, pesa 20 kg, addirittura va in sintonia continua, o scegli o sintonia continua o canalizzato, che per allora è una cosa veramente fantastica. Adesso quella da tanto tempo non accendo, adesso spero che non mi risiede qualche brutta sorpresa, quella, poi c'è il trino da sopra, lo stesso che da tantissimo accendo, lì sul mobile laterale ne è una marea, perché lì non ho fatto ancora la linea dei passaggi dell'antenna per sdoppiare i cavi dell'antenna eccetera, e perciò così non puoi stare sempre smonta, sposta, fai eccetera, e sicuramente c'è stato qualche utile da quella parte, non so, adesso vediamo, il parroco è sempre pronto per indire una messa, vediamo un po' che cosa, speriamo di no, ma se no pazienza, accenderemo una candela. Vabbè. Succede quando ce ne sono tante, non riesci magari almeno a accenderle, perché anche loro restando spente, io già ne ho poche, quindi non ho di quei problemi. Vabbè, adesso le qualche notte magari non so cosa fare, ne accendo e lascio andare, che anche io, ma giusto per caricarci un po' anche con il saturito qua, ma niente di... sono radiette così, da due spiccioli queste in confronto. È così, vabbè, adesso ho rimesso un'altra radio, volevo capire un po' se questa sta funzionando bene, ma non avete rigirato poi per Alessio. Alessio, ci sei ancora o stai ancora mangiando il panettone? No, la luce era sceso. Ah, sceso era Alessio? Sì, già era sceso, avevo già tappato la fossa. Ho capito, non avevo neanche visto l'immaginetta, niente, così, prematuramente, vabbè, pazienza. Gianni, come mi senti con questa radio invece? Bene, ti ascolto bene. Io sono sempre con la solita, adesso non ho voglia di andare sul mobile a prendere l'altra. Ne ho una ferma, c'ho un Midland Alan 48 Plus, che è quello lì che ho dopo che sono rientrato nella nuova concessione. Quello lì ce l'ho fermo, funziona tutto quanto, però non lo sto usando. Bisogna che me lo metta in stazione, tutto anche quello lì e via. Eh sì, conviene commutatori, pim pum pa, e quando ti serve una accendi una, giri e fai ed è pronto. Ah, io vado a cavo diretto, commutatore non ne metto più perché l'ho messo mi andavo a stazionare a fondo scala delle commutatori. Ed era nuovo di zecca, comprato da poco, o l'ho aperto a vedere se va qualche cosa, lui sembrava tutto in ordine, non capisco il perché, ma mi mandava tutto a massa. Ehi già, ma sono sicuro che era un commutatore di quelli giocato. Se compri roba naiva o cose del genere, non ne fanno scherzi di quel tipo. Se hai comprato roba del mondo della 27, tipo Intec o roba del genere, è comprensibile, ma se compri roba fatta a prodotti di qualità che escono da quella del mondo della CB, non ti succede né problemi di quel tipo, già, capito? Sicuramente sarà uno di quelli. Adesso poi stanno girando anche tutte quelle imitazioni, addirittura dei Daiwa, che sono peggio di quelli della banda cittadina, che sono fatti male, con bandelle di materiale scadente, costano poco, si assomiglia, li verniciano dello stesso colore, chi non li conosce li compra e poi non capisce che cosa è che gli crea il problema. Sfortunatamente questo mondo di internet ha aperto le porte anche a questo caos che si verifica alle volte. Sì, la ZG, non è che lo nascondo, sì, la ZG l'ho comprata a Fusaro, ma comprato nuovo non è a dire che me l'ha comprata a seconda mano, roba del genere, e faceva questo problema. L'ho messo in diretta e le stazionarie scendevano a uno a uno, attaccavo il commutatore di nuovo con lo scale, e allora ho detto, basta, fatto, l'ho tolto. Sì, io lo feci, ne avevo uno, anzi ce l'ho ancora, quello a 3 dalla ZG, e l'ho cambiato, l'ho tolto fuori perché andava male. Poi mi ha prestato uno Walter, che mi sembra che sia 6 antenne, Marco, tu forse te lo ricorderai, quello autocostruito con la basetta in legno, bella pesante, tutto quanto, ma un mattone sembra. Sono attaccato all'antenna principale, poi 5-6 uscite, e sto utilizzando quello è micidiale. Sì, è così, già, lo sai perché? Sicuramente in quel commutatore lì è il materiale di isolamento che è scadente, non rispetta 50 ohm e ti innalza le stazionarie lì. Ma è una perdita di soldi e di tempo, bisognerebbe smontare i connettori, sostituirli, comprare dei connettori seri e rimetterli, e magari il problema poi controllare la mela di contatto eccetera, ma non va la pena. No, ti dico, guarda, commutatori buoni costano un po', sto guardando qua, quelli più economici, che sono ritenuti fra i più economici, della MFG, che almeno sono veramente tirati all'osso come risparmio, ma funzionano, e comunque costicchiano, perché un commutatore a 6 antenne costa 124 euro, un commutatore un commutatore a 4 lo puoi, un Daiwa a 2 costa 30 euro, uno a 3 costa 46 euro, uno a 4 costa 49 euro, capito? Un commutatore un po', i Delta ad esempio a 3 costa 100 euro, un buon commutatore, ecco, questi secondo me sono il primo gradino, questi qua della MFG con insomma una quarantina di euro compri un commutatore buono. Quelli della ZG, la ZG fa delle cose carine, ma nei commutatori secondo me hanno toppato, perché non vanno così bene come dovrebbero. Sì, ho controllato tutte le lamelle, erano apposta, non erano le lamelle, perché le ho controllate. Io ho fatto prima Marco, ho fatto vedere il cassonetto, buonanotte, e vado dietro, giro, tolgo il filo e lo rimetto nell'altro apparato, molto brillo. quello è la soluzione migliore. E poi ci sono quelli commutatori automatici, però bisogna spendere un pochino di soldi, e quelli tac tac tac pom, fai tutti i cavi già tutti pronti, però costano, ci vogliono dai 200-250 euro, mi pare, in su. Adesso sto guardando, 8 posizioni, 278 euro, capito? 285 euro, eccolo qua, commutatore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 8 posizioni, 280 euro, e ci puoi collegare 8 radio e un'antenna, e questo potrebbe essere una soluzione carina, oppure ci sono a 6, a 5, sempre sul tuo discorso, bisogna spendere denari. O altrimenti, se no, come hai detto tu, vado dietro, stacco uno, attacco, e buonanotte, sono attori, e quello funziona bene. Oh, Tino, ma con questa radio il segnale come risulta? Adesso sì, 9.18, 9.18, radio 5, perfetta, va bene, un pochino più basso il segnale, però va bene. Ma la radio posso aumentarla un pochino forse, aspetta, guarda, così è il massimo che posso fare, più di così non posso fare altro. Allora lasciala così, cioè va bene. Va bene, non è che diventa, non satura, no? No, fa niente. Ciappa. Gianni, da te come mi ricevi? Io leggermente saturo, devo dire la verità, un pochino saturo. Provo a abbassare il volume, se dipende da me, vediamo. Da te già, perché sono anche troppo vicino, è per quello che infatti chiedevo a Tino, che invece ha una distanza più ragionevole, capire se da lui saturava oppure no, se da lui non satura si può sopportare, certo poi per rimanere in questo con te e creare problemi lo riduco così e buonanotte, sono attori. Abbassando il volume riesco a ascoltarti bene, Marco, però col volume come la prima no, col volume come la prima eri leggermente esatto, non tantissimo. Ma aspetta Marco, hai abbassato adesso? Sì, adesso l'ho abbassato. Allora non mi sono accorto di niente, la radio non ha cambiato niente. Ho abbassato un pochino, guarda, adesso è il passaggio numero 1, passaggio numero 1, passaggio numero 1, passaggio numero 2, passaggio numero 2, passaggio numero 2, passaggio numero 2, passaggio numero 2, passaggio numero 1, passaggio numero 1, passaggio numero 1, passaggio numero 1, passaggio numero 2, passaggio numero 2, attenzione, passaggio a livello numero 2. No, non cambia, se cambia proprio leggero, neanche me ne accorgo. Vedi, per vicinata lo avverte Gianni, perché comunque passo da 7 a 10 per intenderci come livello di potenziometro. Ho capito, però non faccio una differenza né se era la radio né se era il segnale. Ok, ma allora lascio così, se è amplificata va bene, lo lasciamo così. Io ho dovuto abbassare la radio, se abbasso la radio ti ascolto bene e ascolto bene anche a Tino, ce l'avevo un po' più sollevata e ti sentivo leggermente sato, non molto ma un po' sì. Cappa, difatti dai, lo tengo più basso e non c'è problema. Ma ritornando alle antenne, niente, perciò già fai il tuo gioco, quello che ti miglia da tornado e sei un bombo, mi lascio perdere che sei la Game Master da questi problemi, e come siamo esposti a nord noi per il vento è troppo delicata. E poi io sono proprio di fronte al mare, si vede il mare da casa, si vedono le barche addirittura. Lo so. Perciò non è adatta, a meno che uno poi non ci mette contro 20, queste, due ralle, casotto. Invece una bella antenna sana, una bella sana antenna in alluminio, va che ce n'è. Sì, ma siamo sempre nel discorso delle cornacchie, cioè. Per quello che volevo eliminare i radiali, capito? Perché le cornacchie me li buttano giù, se no ci pensano loro a farlo. E guarda, però riguardo a questa cosa dei radiali, non è che i testi che parlano di antenne verticali senza radiali che possono funzionare. Questa cosa del fatto che non ci sono i radiali, non pensare che sia una bella cosa, è una cosa che possa funzionare meglio di una che ce li ha, perché se la tua antenna adesso togli tutti i radiali, anche la tua antenna rimane un'unione stazionaria, continua a trasmettere, a fare, ti sembra che funzioni, ma il rendimento dell'antenna, se c'è un po' se vuoi fare una prova e fare un collegamento a lunga distanza, è lì che vedi le differenze. Magari non so, una stazione Alghero che ti ascolta, metti un'antenna con il radiale, con un piano di terra come si deve e ti ascolta, non so, 5 per dire, metti l'antenna senza radiali e non ti ascolta niente, perché i radiali sono basilari per un'antenna verticale. Beh, certo. Vabbè, ma forse hanno compensato con qualche altro metodo, io sto pensando a quello. Anche a me non è che mi dia tanta fiducia a prendere la stessa radiale, E tanto vale che piglio un'antenna di macchina di Raboni Giobbe. Metto la Turbo 2001 e vedrai che va di più di questo. Ma scusate un attimino, stavo parlando di antenna dell'assidio Tornado, quella è un similare proprio della nostra, bella resistente, insomma, perché non ci prendi quella? Adesso vedo, ma non c'è bel tempo, tanto adesso sta andando bene, l'antenna va bene, mi tocco però va bene, sono le due di stazionarie, è tranquillissima l'antenna. No, perché una volta... basta una foto di 40 anni giusto per farmi capire per poterla sostituire nel caso dovesse andare male la Mantova, c'è quella che è molto similare ed è anche bella resistente, non so se è migliore poi quella o la Stella, Marco, tu magari sai qualcosa in più di questa qua. Ma guarda, io gliel'ho detto, fra le antenne che anche io quando ho dovuto cambiarla, anche io ero orientato fra la Sirio e quella che ho preso, che è la 827, e ci avevo queste due in pista. La Stellar no, perché comunque la Stellar è disassata, c'ha una staffa L e tutto il carico dell'antenna è sulla staffa, cioè è un tipo di meccanica che a me non piace, mentre queste due sono quella che ho preso io, l'827, va montata come la Mantova, entra dentro il tubo e poi ci sono i bulloni di serraggio, mentre la Sirio, la Tornado ha la doppia staffettina, che la staffa doppia, che una avvita sul supporto dell'antenna e l'altra sul palo che hai dedicato per l'antenna, mentre la Stellar, a parte che non l'ho vista in vendita recentemente e non so neanche perciò se è ancora in produzione, tutta l'antenna si regge sulla staffa in lamiera piegata e non è che sia un sistema di sostegno, cioè, perché in realtà io quando l'ho visto ho detto boh, magari ci faccio una faccio fare da Fabrizio una saetta per rinforzarla, però poi ho preferito prendere questa 827 che c'ha anche questo anello di plastica che lo protegge protegge il radiale, che poi non ha protetto perché comunque un radiale è lì perché il peso delle cornacchie maledette le piega. Perciò questa Tornado secondo me è una gran bella antenna. E questa 827 che hai preso tu è sempre della Sirio? Sì, sempre della Sirio già. E vabbè, valuterò lì. Controllo e guardo bene su internet. Perché io ho messo venditori antenne base e mi ha dato queste antenne qua, capito? Queste sono le antenne, poi ci sono quelle Venom, quelle altre antenne lì da 60 euro, 50 euro che sono sempre 5 ottavi, ma tubicino d'alluminio leggero tipo Vega 27 o cose così, ma sono un po' delicatine, non sono ben c'è sempre della Sirio, l'altra la GP27 che è lo stesso, uno stilettino leggero, sono un po' delicatine, mentre queste che abbiamo detto sono un po' più massicce, un po' più solide, dai. È più robuste, dai. Sì, non riprendo. Sì, volevo fare una domanda a Marco, giusto perché non mi ricordo Marco, di quel diplomo che mi avevi fatto, ti ricordi, il più lungo, quanto è per braccio? Sì, non mi ricordo, perché bande l'avevamo fatto, non me lo ricordo, che bande avevamo scelto. E non mi ricordo se era 15, 20 e 40, lo sai? No, 15 non è possibile, sì. 15 no, 15 e 40 insieme no, perché la, quando faccio l'antenna per i 40 è già risuona anche per i 15, perciò se ci sono i 40 ci possono essere i 20 e ci possono essere 20, 40 e 80, oppure può essere 10, 20 e 40, capito? L'antenna può essere 10, 20, 40 oppure può essere 20, 40, 80. No, allora era 10, 20, 40. Che mi ricordo io. Quanto è lungo il braccio? Giusto per vedere se ci sta in una certa posizione, perché poi se devo posizionare verso est, giusto? Ma dipende da, che, da dove c'hai la possibilità di ancorarla, perché l'antenna è radia, se la metti a V invertita è omnidirezionale, quasi omnidirezionale, se la metti a V invertita, cioè il centro in alto e i due bracci inclinati, se invece la metti perfettamente orizzontale il lobo di radiazione è a 8, cioè il lato lungo è quello che genera meno segnale, capito? Cioè genera un cerchio davanti per il lato lungo e un cerchio dietro ed è in radiazione a 8, mentre se la metti a V invertita è quasi omnidirezionale. Sì, dovrei metterla così, a V invertita, però non mi ricordo quanto era di braccio, perché non so se riesco a ancorarla in una certa maniera, solo devo usare un ferro della SIP per agganciarmi. Ho capito, aspetta, se l'abbiamo fatta per quella 20, 40 e 80 avrai tre bracci, ovviamente, dove uno è intorno ai un braccio, cioè il singolo braccio è intorno ai 2,5 metri, l'altro è intorno ai 5 metri e l'altro è intorno ai 10 metri. Adesso così per darti subito un'idea di misura, poi nel particolare se te l'avevo fatti a centrobanda, magari forse sarà 2,52, 5,020 o 10, però per larghe misure sono 2,5 metri, 5 metri e 10 metri, capito? Ok, metti il caso che invece 10, 20, 40, con la 40 quant'è? 10 metri stesso, no? Sì, a te, quando è, se l'antenna è 10, 20 e 40, i bracci sono 2,5, 5 e 10 per braccio, perciò l'antenna sviluppa praticamente in totale sviluppa 5 metri per i 10 metri in totale, 10 metri per i 20 metri e 20 metri per i 40 metri, mentre se invece l'avevamo fatta per 20, 40 e 80, allora è 5 metri, 10 metri e 20 metri, capito? Per braccio. Sì, perfetto, perfetto. No, mi ricordo ora 10, 20, 40, però vabbè, mi interessava sapere la lunghezza per braccio, perché uno non ho problemi, posso attaccarlo a qualsiasi tipo di albero, anche se allungando con una corda. Siccome avevo messo dei tubetti in plastica per distanziare un braccio dall'altro, no? Poi legato con delle fascette, l'ultimo braccio volevo sapere quanto era, perché poi da lì devo ancorarmi, anche sempre con un pezzo di corda, però volevo sapere se ci arrivavo bene al palo o meno, capito? KQSL, ecco, tieni presente che se la vuoi omnidirezionale, essendo, allora, quell'antenna funziona in due modi completamente diversi a seconda di che tipo di lavoro vuoi fare e come utilizzo. Nel senso, la vuoi utilizzare come antenna per fare collegamenti a lunga distanza? Se la vuoi utilizzare per antenna a lunga distanza devi metterla perfettamente orizzontale, sempre con i bracci leggermente spaziati, che poi ci puoi mettere dei pezzi di plastica per spaziali da 10 cm, no? 10 cm il primo e dal primo al secondo di 10 cm, perciò comunque il radiale più piccolo, che è quello di 10 metri, rimarrà sempre leggermente più inclinato rispetto a quello dei 40 metri, ma nel caso tu, siccome l'antenna l'ho battezzata come antenna a ragno, in quel caso allora metti i 40, li metti leggermente più in alto per compensare la differenza della misura, no? Perciò rimarrà un po' a ventaglio, come effetto ventaglio, effetto ragno, proprio perché rispecchia un po' le gambe del ragno come principio. In quel caso l'antenna irradia perfettamente a 8 e allora è un'antenna che devi posizionare dove devi prediligi fare il collegamento, no? Perciò se tu vuoi collegare i collegamenti li vuoi fare a est e a ovest, l'antenna devi mettere a nord e sud, capito? Tesa fra nord e sud. Se invece vuoi fare i collegamenti fra nord e sud, devi tenderla fra est e ovest. Mi sono spiegato? Sì, sì, perfetto, perfetto. No, la trovo sempre giusto perché io poi, avendo a casa vicino alla strada, non posso andare oltre, quindi devo leggermente andare verso l'angolo della mia campagna per poterla ancora lì, quindi non è perfettamente disposta a essere, parlo sempre a qui invertita, però vabbè, sarà bene lo stesso. No, stavo pensando invece, siccome per alleggerirlo, tanto i 10 metri lo puoi usare anche sulla verticale, quindi non so, togliere quello lì e magari lasciare i 20-40. Ma non hai perdite, non hai nessun vantaggio, cioè perdi un'altra possibilità di un segnale direttivo, capito? Ma non hai cambiamenti di rendimento dell'antenna, cioè, ma l'unica cosa che hai, togli due bracci e li hai persi inutilmente, perché comunque non cambia dal punto di vista del rendimento del risultato dell'antenna, mentre se quella radio la devi utilizzare per collegamenti con esso DX, perciò l'hai sistemata con i dipoli tesi perfettamente orizzontali, lì con un'antenna hai tutte e tre le bande, quattro le bande, perché ripeto che il cavo dei 40 lo accorda molto bene anche in 15 per i multipli di frequenza, perciò hai 10, 15, 20 e 40, cioè praticamente la copertura quasi di tutte le bande con unica discesa. È una soluzione che nel tempo io ho provato ed ho ritenuto vantaggiosa proprio per questo, perché con un cavo solo, con una discesa solo, puoi fare bene tante cose. Se non ti serve lo togli, ma l'hai tolto tipo il cuore, dove l'antenna perde di profondità e diventa meno performante per i collegamenti a lunga distanza, ma molto più performante per i collegamenti a breve distanza, capito? Perciò ti dicevo che l'antenna dipende da che tipo di uso vuoi fare come ascolto. Se vuoi sentire le stazioni lontane, devi metterla più preferibilmente perfettamente orizzontale. Se invece vuoi sentire più antenne, collegamenti con short skip, perciò con segnali più corti europei, intorno ai 700, dai 700 ai 1500 km, 2000 km, 3000 km, e incomincia piano piano poi a scemare, diventare più debole, sistemata invece con il palo centrale e i radiali inclinati, capito? Bene, adesso rilancio a Gianni che devo allontanarmi un attimino dalla radio. Sì, ho capito perfettamente, Marco, è che devo trovare la soluzione più ideale, perché mettendola, come stai dicendo tu, in orizzontale sarebbe l'ideale secondo me, però il problema mio è il cavo, quindi dovrei aspettare un attimino per fare l'acquisto e valutare quanto me ne serve, dove metterla e quant'altro. Bene, ho capito, lascio un attimino un like a Gianni, devo salutare qua in verticale e poi riprendo. Vai Gianni. Io? Sì. Sono arrivato a casa, 9:10 questo qua, sì. Mi sembrava strano che arrivavo Santiago 7 da te. Un attimino, mi stavo tornando, arrivo subito. Gianni, ci sei? Sì, ci sono, dai, stavo aspettando che vi rilanciavate perché non avevo portato giù il cane. Dai, ci sentiamo ragazzi, statevi bene, grazie per il QSO e buona continuazione. Sì, ciao già, ci sentiamo. Ciao anche a Tino. Io tanto lo stesso scendo giù che è già ora di cena. sono le 8 passate, scendo un po' a dare un'occhiata e rimango giù a cenare. Vabbè, allora niente, ci sentiamo, dai. Ciao Tino, ciao chiunque fosse in ascolto, ciao Luca, un abbraccio, ancora auguri e auguri a chiunque in ascolto qua sul canale 10, Marco Scorpione in QRT, ciao ciao. Riprendo io, ciao, sono con le mie che stanno andando via. Va bene, questo lo sapere comunque, dai, Ehi, scendo a cenare, la signora non mi ha ancora chiamato, ma è da un momento all'altro, è già sicuramente importato per la cena. Ci sentiamo, io sono in vacanza e quando vuoi, se vuoi anche domani, qua, vengo, lo facciamo insieme, non c'è problema. Va bene, grazie Marco per la disponibilità, ci sentiamo, ti lascio andare. Avanti Gianni. Magari dopo cena riprendo, risago se vogliamo fare ancora delle prove. Gianni deve essere andato a portare giù il cane. Va bene, ciao ciao, ciao Luca. Sì, ciao Marco, là, salutoni. So cosa dovrei fare, con calma. Siccome so che arrivi 9:10, però devo capire chi è il trimerino dello Smith adesso, del Typhoon, non mi ricordo qual era. Così lo imposto, cioè lo metto uguale a questo qua. Aspetta un attimo, riprovo di nuovo l'altro, dai, se non mai che era forse l'umidità, aspetta che riprovo l'altro, facciamo una prova un attimo. Sì Luca, sono qua, allora tu hai lo stesso segnale mio, quindi in paragone, ti ripeto, come stavi facendo la volta scorsa, era impossibile che arrivavo Santiago 7 e tu arrivavi 9:05, capito? Quindi era giusto per farti capire come dovrei arrivare io per te, almeno ascoltandoti con questa radio. Va bene, sono qua, dai, prova. Cava cava e cava cava. Guarda un attimino, prova. Vedi un po' come il segnale si è cambiato. Segnale 8, cosa ha segnato qua? Però non lo so qual è il trimerino, non lo so. Dovrebbe essere uguale a questo qua, il baracchino, però... E tu invece qua 9:10, come poc'anzi, quindi un pochino sordo in ricezione, magari cerca di con qualche vittina metterla a 9:10 e così hai i segnali precisi all'altro. Ora se cambia da così alla così. Cambia qualcosa, niente. Allora. Adesso sei 9:10 con picchi positivi a 9 quasi 12, al contrario di Focante che è Santiago 9 con picchi positivi a 9:10 più. Ho capito. Vabbè, non lo so quanti watt da questa radio, capito? Non so quanti watt da... Ma tipo vado 20 watt, boh. Va bene, va bene. Sto provando poc'anzi tutto, però aspetta, lo riaccendo. Positivo è il capo rosa, dai, attenzione binario 10, attenzione binario 10, se sentite ascoltate questa piccola chiamata, cap. Positivo è il capo rosa, questa è bella, dai, cap. Come fa questa piccola sorgenzina, Luca, Locariallo? Positivo è Caparroia, dai, frate, la cosa è bella, dai, ti ascolto 9:10, no, la segnale 8 qua, ragazzi. Segnale 8, adesso domani, come faccio a fare le prove, io, che sono il problema? Come faccio? Non lo so, dovrei organizzarmi, buttarlo giù, perché è agganciato sotto adesso, là, al piano, là, ho fatto un piano, dovevi sganciarlo da lì, aprirlo e fare il lavoro. Eia, chiappa, vedi un attimino che ero con la benzina bassa. Sì, 9, però si saturo. Saturo? Ecco qua. Ora, 9:3, prova. È compressa la radio, è molto compressa. Si capisce, sì, ma si sente che sei agganciato. Ecco, invece così, guardalo, ha cambiato? Questi sono i watt dell'apparato, eh? Liscia liscia, liscia liscia. Perfetto, perfetto. Segnale 7 a picchi di 8, sì, eh? Aspetta. Ora. Ehi, caspita. realtà non lo so che quanti watt da, non lo so. Aspetta un attimino, vediamo un po'. Sì, ho dato male il tastino, ma che cacchio me l'ha messo? Poi ricordo, aspetta un attimo, adesso se fare la prova. Che cacchio l'ha messo il tastino? Non metto più, ma cazzo. E guarda invece, ora il segnale di questa, forse sono senza batterie. Non lo so, vedi un po'. Segnale 8. La radio bassa? Assolutamente no, la radio è bella, bella amplificata. Questa però sappi che questo è il Midland 48, aiutato con il 747, quindi stando 50 watt buoni buoni, e arrivare con quel segnale basso, capito? Sì, sì, sì, sì, vabbè, non lo so cosa è successo. Non lo so, si sarà staratto lo smitter, non lo so Tino, però il problema è che non lo so qual è il trimerino, voglio fare danno, hai capito? Ah sì, anche io, anche quello, adesso per dire tu stai, ma io non ci tengo conto a questo qua perché vuole cambiare lo smitter e stai arrivando a Santiago, sì, quindi non lo guardo neanche lui, non va bene, non va bene, vuole cambiare anche qua. Ma li faccio danno, è poi un casino. Qua mi tocco una cosa che non devo toccare, non mi ricordo qual è il trimerino, capito? Non mi ricordo. Quindi vabbè, interessante che ci sentiamo, dai, la radio è a bomba. Tutte le radio che arrivano a bomba, qua il segnale è un po' di meno dell'altro, dai. L'altro sicuramente lo dà giusto, ma questo no. Faccio sentire un'altra radio, però è normale 4 watt, quindi solo in accoppiata con un MQV5, aspetta, è comodo e te lo faccio sentire. Via. Ora, ci sono, sì? Via, fai. Eccomi, guarda un attimino, c'ho questo uccello che sta, vieni qua, te, io, Pippo, va, Franciccia. Guarda un pochino com'è, se sta andando bene. Vabbè, la radio è sempre bella, forte, segnale sì. Sì, capita. Caspita, questi sono 4 watt però, 4 watt originali, mai cacciavettate, mai toccate dal negozio al compratore senza mai toccare niente. Questo è, vabbè, è vecchia di età, Sì, va bene, ti dà voglia. Va bene, va più che bene, capito? Gap. Sai cosa l'ha pigliato? Ma lo smetti prima andava bene, perché a Claudio per esempio arrivava giusto il segnale. Non penso che ci sia stanato da solo. Non lo so. Io ti ripeto, con Claudio ascolto 9-10 e quindi per quanto riguarda la distanza tra noi due dovrebbe cambiare di poco, ma non di tanto. E avevo le 7 con 20 watt e poi modulati 50, non insomma, cambia la cosa. Beh, certo che cambia, no? Questo adesso non so quanti watt, io ho messo cioè, un puntino bianco qua, non so quanti watt, se mi sa 10. Ma invece devo solo fare un microfono della CTE, perché questo essendo vecchio magari maltrattato, il capo un po' così, diciamo che ogni tanto distorce, va maluccio, devo fargli nuovamente le connessioni, non ho voglia tempo per il momento, diciamo. Vuole un tempo la gana a te, hai fede? Sì, dovrei entrare a gennaio, il 7, ma adesso vediamo se siamo messi bene. Vediamo là, perché adesso chiamerà Scaglioni nuovamente per rientrare, perché ci sono vari cantieri aperti e bisogna fare un po' le squadre nuovamente, capito? Però diciamo che mi ho girati tutti i cantieri, quindi non c'è problema. Beh, se ci si muove Olbia. Quello ormai fatto, finito, dimenticato, adesso siamo via Napoli, via Roma, via Citti, siamo a Alghero, un break and breakfast, a Fredanieda, a Gacenera, Genera. Interessante micurità, utilizzare la stanza di micurità e poi piano piano dai, già va bene. Micurità sì, ma non è che io il micuritteggio è domagna, insomma, dobbiamo mangiare, come si suol dire, una grande famiglia, bisogna mangiare un po' tutti, non solo il padre e la madre. No, dico, adesso ti dico a lavorare, si intende, non è che devo andare gratis, È vero, è vero. No, vabbè, ma già siamo bene tutti quanti, diciamo, dai. Cioè, lei se mi grassa lo guru e dopo a voi a darvi una miseria, no, non funziona così. Certo, lui deve guadagnare molto, molto più di voi, ok, ma deve anche far guadagnare a voi. Certo, vabbè. Attenzione, mi chiami doppio rumo, se ascolti questa piccola chiamata capo a capo. No, adesso è che è uscito. Mi sa che se non ho capito male è andato a portare il cane. O il cane è andato a portare a lui, boh. Dunque, guarda, una bella passeggiata da lì, no? Poi siamo fermati un mal, abbiamo avuto un vinello, uno sfumantino. Abbiamo proseguito piano piano e siamo andati a prenderci la macchina al Lido, tu conta dal centro, a piedi, fino al Lido, mia camminata. Vabbè, no, io qua non vedo con pure legna perché l'inverno qua sta iniziando e quindi devo prepararmi un pochino di cose. Domani, se mi vuole, mi taglio il prato, così almeno. Così ho finito e posso uscire. La legna ci vuole. C'è la stufa a legna o il caminetto? No, la stufa a legna. Stavo pensando di comprarmi una a pellet, ma non è il momento adesso. Neanche il suocero ce l'ha a legna, cucina anche. Ma scalda è una bellezza, guarda. Scalda è una bella. Poi apre il forno, va. Stai benissimo lì. Non ti puoi lamentare, anzi, è anche troppo caldo. Sì, effettivamente, secondo me, questa legna scalda più di quanto scaldano quelle a pellet, però la comodità è che il pellet non sporca, la legna te la devi preparare, devi togliere la cena, quant'altro, vabbè, insomma, il pro e il contro. E tu quella là è anche aria forzata, se non mi sbaglio, col pellet c'è la ventolina che ti manda anche l'aria calda, questa invece è calore naturale. Si conferma, manda l'aria, la ventola, scalda quei tubi che c'è sopra, la fiamma, e poi lì c'è la ventola e ti butta l'aria fuori calda. E vabbè, alla fine lo so il consumo, la differenza. Comunque quella del padre di Marina, che quando diceva le pedane, cazzo, se non ti scaldava allucinante, ma ci potevi stare vicino, scaldava un bel, con la legna un po' meno, poi già scaldava lo stesso, dai, già non ti puoi lamentare. Lo so, io lo stesso, io sto utilizzando pedane perché ho utilizzato, poi siamo andati con Antonio riserva a fare un po' di legna davvero, ho utilizzato quella legna lì e c'era via Pineta Mugoni, che le parti lì stavano regalando, siamo andati a prendere col furgone, ma niente a che vedere con le pedane, a parte che faceva un fumo, faceva una puzza, forse perché vabbè non era secca del tutto, era una legna un po' così, è meglio il pino che quella lì. Sto utilizzando le pedane io, solo che le devo preparare, le devo tagliare, selezionare, andare a prenderne e quant'altro, però vabbè, quella c'è adesso. Già fa fuoco, dai, già fa fiamma, che quella. Le pedane scaldano bene, solo che ti durano poco. Vabbè Lu, ma ascolta, io adesso devo preparare qualcosina per i ragazzi, che sennò anche loro hanno fame a quest'ora, anche se hanno mangiato, hanno mangiato poco a pranzo, quindi, niente, mi devo allontanare. Nel caso domani mi fai uno squillo, se vuoi dovrei essere a casa, secondo me sono, poi ti faccio il controllo e vediamo un pochino, ok? Sì, allora nel caso io lo apro, però che ho vedo un po' se c'è scritto il coso del trimmer, ma dello smitter, il trimmerino, e lo regolo, se no lascio così, ma la notte la tavola battesi, non vorrei fare danno, ma boh, datti, anche io porto il cane adesso, e caro ci sentiamo domani, a me se ti mando un messaggio, dai, andiamo, ciao, ciao, vabbè, buona cena. Va bene, ciao, ciao, tante comuni ancora per famiglia, ciao. Via, tutto contraccambiato, ciao.